Liberi Dentro e Duradio, il programma di intrattenimento e cultura che fa ponte tra carcere e città. Andrea si è perso, si è perso, si è perso e non sa tornare. Venerdì 29 gennaio, buongiorno da Caterina Bombarda e da Ignazio De Francesco, da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno Caterina, buongiorno a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori della città, anzitutto, e del carcere, poi del carcere che è quello di Bologna, ma anche le altre case circondariali della regione, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Reggio Emilia, Ravenna. Davvero vogliamo esservi con questa trasmissione molto, molto vicini, quindi un atto di amicizia. Prima di ogni cosa, ecco, vogliamo dire che vi siamo amici. E vorremmo avere ovviamente da voi le vostre anche segnali di amicizia, qualche lettera, ci farebbe, certo, molto piacere. Fatelo. E siete sintonizzati sul canale 103.1 di Radio Città Fujiko e anche sul canale 636 di Teletricolore. Ribadisco l'invito a scriverci da parte di Ignazio, sempre alla nostra casella postale liberidentro.duradio@gmail.com e all'indirizzo di via San Mammolo 2, 40136 Bologna, intestato a Chiesa Santissima Annunziata. E infatti oggi parto proprio da una lettera, Ignazio, che abbiamo ricevuto proprio sotto sempre le feste natalizie. È Igli, che ho conosciuto anch'io. Che ci scrive: il fatto di vedervi e non soltanto di ascoltarvi, perché prima facevamo solo le puntate in radio, no? Come le puntate precedenti, ha avuto un impatto maggiore che ha coinvolto tanti detenuti, qualcuno anche in prima persona, perché è presente nel docufilm. Infatti avevano trasmesso il docufilm sul giallo d'ossa, quindi deduciamo che siano piaciuti e questo ci fa piacere. La maggior parte delle persone del mio reparto vi hanno seguito in questi 3 giorni, ci siamo messi, fatti anche delle risate, vedendo dei detenuti che sono ancora qui, quindi un po' li abbiamo intrattenuti. Poi aggiunge: durante le feste l'atmosfera è molto desolante, ma quest'anno ancora di più, perché siamo completamente isolati dalla società esterna, però con queste puntate televisive avete costruito un ponte virtuale, quindi noi quando parliamo del ponte parliamo di quello che ci dicono loro alla fine, un ponte virtuale facendoci compagnia e non lasciandoci soli nella nostalgia e nelle tristezze delle feste natalizie. Quindi voglio davvero ringraziare Igli, che ha fatto anche parte, studente che ha fatto parte del libro Ponte di Storie, che uscirà tra poco, a breve, e che non vedo l'ora di darne la presentazione, almeno della copertina, qui nelle prossime puntate. Bene, e quindi con questa lettera dall'Albania ci dice che il carcere è fatto di tante nazionalità, che non vuol dire, poi non entriamo nella questione, allora come mai tante persone di origine straniera sono in carcere, si potrebbe dire i reati che sono commessi fuori, da chi sono commessi. Quindi comunque prendiamo la cosa così com'è. C'è un alto numero in questo momento di stranieri, E tra questi ci sono anche molti, una percentuale piuttosto cospicua di persone che vengono dalla Romania. Persone che io ho conosciuto al di là del reato, perché nessuno è mai solo il suo reato. Il reato è un evento della vita, ma una persona è molto più ricca. E mi sono reso conto di un tratto dello spirito romeno, che è la genialità. Racconta. Hanno una grande intelligenza. Poi certe volte la si applica, ecco, nel male, ecco, un'associazione un po' a delinquere, ma rimane questo tratto di intelligenza molto viva. Per cui non mi stupisco che le cronache ci portino alla conoscenza di 2 invenzioni fatte da romeni molto interessanti. La prima, che ha vinto un grande premio del laboratorio del MIT, un premio a livello mondiale. Un ingegnere rumeno, Burzo Ciprian, che ha inventato, pensate, una maschera anti-Covid, anzitutto molto bella esteticamente perché è trasparente, quindi si vede il viso e non è quella cosa che ti copre la faccia completamente, no? Molto un po' triste come abbiamo. E poi con dei sensori molto avanzati che ti dicono, che rilevano se ci sono dei virus intorno, se ci sono dei pericoli intorno, quindi una di alta tecnologia. Ha vinto questo premio. E l'altro premio è stato vinto da una startup che si chiama Lumen, sempre romena, che hanno inventato quello che potrebbe essere i primi occhiali per ciechi. Uno dice, ma il cieco non vede, non bisogna di... E invece questi occhiali con un sistema di telecamere, di guide, praticamente sostituiscono quello che era il cane per ciechi. E Ma pensa quindi ti a te. danno delle informazioni, stai attento intorno a te, c'è un ostacolo davanti a te, li puoi girare, puoi fare questo. E hanno avuto un finanziamento di 1 milione di dollari, mi pare, 1 milione di euro. Milioni di euro, hanno già 100 impiegati, il prossimo anno dovrebbe fare la sua comparsa questo prodotto, questa invenzione fatta da un gruppo di ricercatori romeni. Ma che bella notizia! Passiamo però allora dalla genialità all'amore, perché la canzone di oggi, sempre di Wadi Al-Safi, è intitolata Lau Yadri Al-Hawa, se sapesse cos'è l'amore. Ascoltiamolo. Eccoci qui liberi dentro, siete sempre su Radio Città Fujiko, canale 103.1 e Teletricolore, canale 636. Sulle note di Wadi Al-Safi, adesso ritorniamo a parlare della nostra pazienza, di questa nostra virtù cardinale, sempre con te, Ignazio. Oggi cosa ci racconti? Direi che come ultima puntata di questo piccolo percorso che abbiamo fatto sulla pazienza, partendo da lunedì, abbiamo visto che è la testa del corpo, poi abbiamo visto che c'è una pazienza nel resistere a compiere qualcosa di male, c'è la pazienza nel compiere il bene, quindi tante, tante cose, insomma, interessanti, abbiamo imparato insieme e alla fine ci sono i gradi della pazienza. E allora sono questi. Il primo grado è Anil Ghadab. Il Ghadab è l'ira. L'ira, noi lo diciamo quando uno si arrabbia, perde la pazienza, no? Ah beh, Ma come certo. fate arrabbiato? Perché avete litigato? Perché vi siete azzuffati? Se lo prendi da parte, ma sai, lui diceva così, faceva così, lui voleva vedere il programma, lui voleva usare prima il fornelletto, eccetera, eccetera. A un certo punto ho perso la pazienza. E quindi il ratab è quello che fa perdere la pazienza e bisogna resistere all'ira. C'è un detto biblico molto bello che dice: è più forte un uomo che domina se stesso di quello che conquista una città. Ecco, è un generale più valido, più potente, quello che controlla la propria ira di Di quel quello che ha perché. compiuto un'impresa eroica. Ecco, perché è più difficile controllare se stessi. Il secondo punto, il secondo grado di questa pazienza è molto bello, è Anil Malal. Anil Malla. Il Malla che cos'è? Invece la noia. La noia. Pensate. Il Malla è la noia. Cioè, certe volte certe cose si fanno per noia, perché uno si è stufato. No? Non è perché si è È vero, arrabbiato. succede. Uff, no? Succede anche a Ah, te, certo. Anche a me quel giorno uno spacchi i piatti, così basta, mi sono stufato, non ho più voglia né di studiare né di andare a scuola. Per esempio, le maestre mi chiedono sempre il tema che non ho voglia di fare, oppure devo fare il mio lavoro di pulire la Sì. sezione, oppure di fare le Sono cose. quelle cose che succedono quando hai degli obblighi impellenti e vuoi mandare all'aria tutto, sostanzialmente. Esatto. Non, quello non è ira, è il malal. Non c'ho voglia, oggi sto a letto, quindi la pazienza è la cosa che mi dice: dai, tieni duro, rialzati anche stamattina, riparti, riprendi. E poi c'è un terzo grado della pazienza molto bello, anittama. Tama è la brama di avere cose. Posso ricordare una persona detenuta con cui ero diventato molto amico in infermeria tanti anni fa, e che lui mi disse: ma io sono uscito fuori strada per colpa di Tamà. Io vedevo le Nike, vedevo le scarpe in Italia, vedevo la macchina, cosa, e non ho avuto più la pazienza di mettere i soldini tutto insieme, la cosa, e a un certo punto mi sono dato a fare qualcosa di male. E poi c'è ancora una pazienza, Anil Khauf, cioè la pazienza contro la paura. No? Quindi viene quella cosa: ho paura di qualche cosa, allora agisco in modo inconsiderato. E l'ultima cosa, che anche questo ci insegna molto a tutti, è la pazienza, Anil Ajala, la fretta. Dai, dai, facciamo, finiamo la cosa, dobbiamo uscire, oppure questo lavoro, dai, finiscilo, dai, chiudi la cosa, che andiamo via, no? Allora, no? C'è la pazienza di uno che dice, Yani Mahlan, Ala Mahlan, come si dice in arabo, piano piano, finisci il lavoro, concentrati su quello che stai facendo, e poi il resto viene dopo. E quindi voi vedete, tutte queste virtù, la resistenza contro l'allettamento del peccato, del reato, contro l'ira, contro la noia, tutto questo viene da questo grande tesoro che si chiama sabr, in italiano la Pazienza. pazienza. Grazie Ignazio, e la prossima settimana torneremo con un'altra parola che ci accompagnerà per tutta la settimana. Noi ci rivediamo lunedì prossimo e adesso lancio io un brano per chiudere questa mattina, per chiudere questa prima parte della mattinata di un cantautore italiano, Gian Maria Testa, e il brano si intitola Dentro la tasca di qualunque mattino. Buon ascolto. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di cotone e profumo, col fazzoletto ti nasconderei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti accarezzerei. Salirà il sole del mezzogiorno, passerà alto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Ti porto ancora se ancora mi vuoi. Salirà il sole del mezzogiorno e passerà alto molto sopra di noi, fino alla tasca del pomeriggio. Dall'altra tasca ti porto se vuoi. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti porterei col fazzoletto di seta e profumo, col fazzoletto ti coprirei. Dentro la tasca di un qualunque mattino, dentro la tasca ti nasconderei e con la mano che non veda nessuno, e con la mano ti saluterei. Rieccoci, siamo qui con la nostra dottoressa Maria Inglese dell'ASL di Parma e con lei abbiamo detto guarderemo di volta in volta delle parole chiave o degli aspetti che fanno parte del nostro vivere sociale, della nostra identità, della nostra salute anche mentale, ma di tutti quanti. E dicevo, Maria si occupa anche ultimamente, negli ultimi anni, di marginalità sociale e oggi con lei, quindi con te, buongiorno Maria, parliamo buongiorno. Di paura. E sulla paura direi questo, che non è qualcosa di sbagliato, è un'emozione, fa parte del grande corollario di emozioni a cui possiamo attingere come esseri umani. Ed è come, io me la immagino come un segnale stradale, il triangolo rosso che ci avvisa di qualcosa, di fare attenzione a qualcosa. Quindi chiedo a te, Maria, le origini di questa emozione, se ce ne puoi un po' parlare con noi. Ok, grazie Caterina. Esattamente quello che hai detto tu, la paura è un'emozione segnale e che segnala un pericolo. E noi manteniamo dentro di noi anche così l'origine e la filogenesi di questa emozione, perché come specie umana abbiamo attraversato un ambiente che era pieno di pericoli e attacchi alla nostra sopravvivenza. Ecco, il nostro organismo, la nostra mente mantiene un po' di queste reazioni, di queste risposte al segnale paura, al segnale pericolo. Noi possiamo vedere appunto la paura come appunto un segnale per qualcosa di specifico o paura di qualcosa o di qualcuno. Però esiste poi come un continuum in questa emozione che dà una paura specifica, che mette in atto poi tutta una serie di reazioni che sono utili, dalla fuga, dal attivare la risposta motoria, oppure anche la risposta alternativa, quella dell'immobilizzarsi. Sono tutte reazioni legate alla paura che fanno parte appunto della nostra filogenesi. Ma poi la paura può un po' andare oltre. E allora in questo caso diventa ansia. L'ansia è la paura senza un oggetto. Questa è un po' la definizione. E ulteriormente all'ansia possiamo poi sfociare nell'attacco di panico, che è il massimo della paura. Quindi di per sé non dobbiamo noi aver paura della paura stessa o difenderci da essa, ma fare attenzione a quello che può far scattare. Sì, esattamente. A quali sono le risposte, le reazioni che il nostro organismo mette in atto? Perché se cominciamo a avere paura della paura, come dicevamo, o paura senza un oggetto specifico, oppure di oggetti che anche potrebbero essere potenzialmente pericolosi, ma non lo sono più. I grandi animali non sono più pericolosi per noi, però esistono persone che hanno fobie per i grandi animali, così come esistono persone che hanno fobie per i serpenti, fobie per gli insetti, no? Fobie per gli spazi chiusi, per gli spazi aperti. Però è la nostra reazione, la reazione del nostro organismo che diventa a un certo punto, è come se sorpassasse un certo limite, e a quel punto tutte le manifestazioni somatiche o psichiche ci mettono in allarme. E questo va accolto e va un po' chiarito, e in questo caso bisogna intervenire, perché altrimenti è un meccanismo che si autoalimenta, cioè se non si blocca questo meccanismo dell'ansia il rischio è che si ripresenti continuamente fino a sfociare poi nell'attacco di panico, che è l'attacco alla nostra sopravvivenza stessa. Il panico è proprio la perdita del contatto con la realtà, della paura di morire, della paura di perdere il controllo, della paura di impazzire. E quindi è come se noi non fossimo più padroni in casa nostra, nella nostra mente, nel nostro corpo. Grazie. Adesso lanciamo un brano musicale e riprendiamo tutto questo interessantissimo discorso sulla paura, che comporta quindi una grossa conoscenza di se stessi, e lo riprenderemo per quello che riguarda gli spazi ristretti e le persone detenute che ci stanno ascoltando. Cosa lanciamo, Maria, adesso? Allora, un brano di Rino Gaetano, A mano a mano. A mano a mano. A mano ti accorgi che il vento ti soffia sul viso e ti ruba un sorriso, la bella stagione che sta per finire ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto quel dolce ricordo sbiadito dal tempo di quando vivevo con me in una stanza. Non c'erano soldi ma tanta speranza, e a mano mi perdi e ti perdo, e quello che è stato mi sembra più assurdo di quando la notte eri sempre più vera, e non come adesso nei sabato sera. Ma dammi la mano e torna vicino, può nascere un fiore nel nostro giardino che neanche l'inverno potrà mai gelare, può crescere un fiore. E rieccoci dopo sulle note di Rino Gaetano A mano, riprendiamo il nostro ragionamento sulla paura all'interno di quelli che sono gli spazi ristretti, quindi stiamo parlando in particolare in questo momento alle carceri della regione Emilia-Romagna, al carcere della Dozza in particolare. Come si può gestire la paura all'interno di questi spazi? Allora, dobbiamo sicuramente riconoscere che gli ultimi mesi hanno aggiunto elementi di paura e di pericolo a una sopravvivenza psichica che è già messa a dura prova negli spazi ristretti. Appunto, chi lavora in carcere, come sanitari, dico, si confronta spesso con delle paure anche immotivate. Penso ad esempio al dilagare delle claustrofobie, no? In carcere, che noi spesso ci troviamo a dover giustificare o a certificare. Però va letto anche questo in termini un po' ambientali. Probabilmente è lo spazio stesso, il dispositivo stesso del carcere che alimenta questo tipo di fobie, questa paura degli spazi ristretti, degli spazi chiusi, degli spazi affollati. E quindi, cioè, noi dobbiamo anche interrogarci se salute in questo caso vuol dire adattarsi a uno spazio ristretto costretto. Questa è salute. Lo pongo come domanda, cioè non so dare una risposta, perché in realtà noi dovremmo alimentare nelle persone un minimo di libertà, cioè di essere padroni e senza sintomi. Ma quando questi sintomi sono legati non solo a una costruzione psichica, a come uno è fatto, ma sono legati anche all'ambiente stesso, e lì dobbiamo un po' negoziare, cioè che cos'è salute, e adattarsi a questa situazione oppure cercare delle strategie. Allora, sicuramente io penso che bisogna cercare delle strategie, però le strategie sono all'interno di 9 metri quadrati, quindi vanno cercate forse più che fuori. Studiate bene, certo. Vanno forse trovate dentro di sé, con delle alternative esistenziali. E a questo punto, se mi permetti, io avevo in mente un racconto di un detenuto, in realtà è un libro molto bello che è uscito diversi anni fa, si chiama Nel ventre della bestia, ed è scritto da Jack Henry Abbott, che era un detenuto e che purtroppo poi è morto anche in carcere, ma che ha scritto questo libro durante la sua detenzione ed è diventato un fenomeno letterario, tant'è che uno scrittore americano ha poi sponsorizzato la sua pubblicazione. E lui descrive proprio il sentimento della paura in carcere. Questo è un libro veramente che parla... Dici qualcosa. Allora, quando ero in prigione avevo messo via ogni paura, al punto che non avere paura era diventata un'abitudine. Ma quella parte di me che io chiamo il mio lato soggettivo avvertiva la paura ogni minuto di ogni giorno. E adesso il disgusto e il terrore sepolti dentro di me venivano in superficie nei sogni, perché gli capitava di sognare il carcere. E ancora, in prigione possiamo resistere come buoni soldati e indurirci, ma se lo fai per troppo tempo perdi te stesso, perché dentro tutti noi nel profondo c'è qualcosa di fragile, debole e innocente, qualcosa come un fanciullo che soffre realmente in un modo che non permetteresti mai neppure a un insetto di soffrire. Ecco, io trovo che questa sia veramente un po' la definizione dall'interno, quindi dall'interno di un istituto penitenziario, come in questo caso americano, di quello che è la paura in un soggetto che è già fragilizzato dal dispositivo stesso, cioè che è quello penitenziario. È quella parte fragile, vulnerabile, che però occorre anche saper riconoscere e poi ascoltare, e a volte anche cercare di curare. Grazie Maria, ti richiedo di farci vedere il libro per i nostri ascoltatori anche. Perfetto, Nel ventre della bestia di Jack Henry Abbott, perfetto. E adesso ci salutiamo, ci vediamo la prossima settimana e ci salutiamo sulle note di No Words di Dotan. Ciao. Sunlight creeps in, cracks in the door. I'll step outside when the world's sleeping. My head held low, out of control. Words hurt the most when there's no meaning. And the wolves outside, they come at my door, cold like the snow as they breathe on me. And the lights they ritrovati, adesso siamo giunti appunto ai saluti di fine puntata. L'invito è sempre quello di scriverci all'indirizzo postale di Chiesa Santissima Annunziata, via San Mammolo 2, 40 136 Bologna, e all'indirizzo di posta elettronica liberidentro.eduradio@gmail.com. Ci rivediamo lunedì, sempre qui su Liberi Dentro alle 9 su Radio Città Fujiko, frequenza 103.1, e alle 10.30 al canale 636 di Teletricolore. Ci saremo sempre io e Ignazio con le notizie dal mondo, e in particolare con me apriremo con notizie dall'Università Il Carcere, da Milano, e poi Ignazio ci parlerà di una storia di immigrazione, perché veramente i migranti molto spesso, anzi quasi sempre, fanno la nostra storia, e quindi ascolteremo questa storia che lui ci racconterà, e poi proseguiremo con il Galateo Arabo Universale. A lunedì. Buona settimana, buon fine settimana.